Le teste di sti uomini che vivono sognando. Tra chi vive col disagio della sveglia la mattina, tra i sapori di caffè, di una routine che continua. Da quando veniamo al mondo sembra tutto uguale. L'apatia che ci circonda qui ci manda male. Ed ogni anima che sale è fatta per ricordare che tutto ti puoi comprare, ma niente ti puoi portare. È un bagaglio personale quello che rimane intatto. Figlio di un valore etico è tutto quello che hai fatto. Rende la vita piena del ricordo di una sera, di ogni scena che riporta l'atmosfera e ciò che era. Rimane su questa tela come tempera che sporca il disegno che hanno fatto per questa storia contorta. E non importa che si viva come lupi o come agnelli, l'importante è continuare sognando vite ribelli. È un senso di apatia che soffoca ogni lamento. Vita monocromatica rende tutto più lento. Vedi là fuori cose, ricordati ogni momento. Sono fotogrammi plastici, classici che rallentano. È un senso di apatia che soffoca ogni lamento. Vita monocromatica rende tutto più lento. Vedi là fuori cose, ricordati ogni momento. Sono fotogrammi plastici e mastichi ciò che ho dentro. Lento ma qui dentro ricordi nel tempo. Sono sparsi nella testa come l'eco del vento che trascina ogni tua bara dell'interno emozionale. Dove il male sa spaccare riesce a prosciugare il mare. Ma il mare non si prosciuga finché cadono le lacrime che bagnano i tuoi occhi mentre fissi un'altra lapide. Valide le ragioni per cui poi ci si promette che questo non ci fa bene, ma intanto poi non si smette. Tu non restare a guardare le scale salile. Cadi arrivando in cima e ti rialzi meno fragile. Ricorda la gioia e poi dimentica il malessere. In questa vita plastica fatta di fototessere, qua essere o non essere non è mica un problema. Si risolve quando l'essere sconvolge ciò che era. E se i miei testi sono banali per la massa ignorante, vi lascio ancora un fotogramma con scritto grazie Dante.